l'altra Europa. Buon sabato da Federico Dadia, 7 minuti dopo le 12 in diretta Radio 24, i nostri studi di Milano, per raccontarvi l'Europa come facciamo ogni settimana, l'Europa delle persone, l'Europa delle opportunità, l'Europa delle storie, l'Europa delle testimonianze oggi in particolare. Come sempre potete seguirci anche attraverso le nostre coordinate digitali, euronetplus.eu, il portale del network al quale apparteniamo, radio24.it invece, da dove poter riascoltare la puntata, e ancora i nostri social, chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola euronetplus R24, per trovare in tempo reale su Twitter e Facebook tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi non sono solo in studio, ho infatti il piacere di avere qua con me Eva Giovannini, collega inviata di Ballarò e autrice del libro Europa anno zero, il ritorno dei nazionalismi, edito da Marsilio. Ciao Eva, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Eva, ti abbiamo già avuto ospite più volte qui all'Altra Europa, abbiamo avuto il piacere di conoscere il viaggio che hai fatto attraverso davvero questa Altra Europa. Oggi ho invece la fortuna di averti qua, perché intanto sei a Milano, perché oggi pomeriggio parlerai di Europa, vero? Sì, parleremo dei muri che l'Europa sta tirando su, la fonderie, il laboratorio Libdem, insomma una serie di interventi su quella che vogliamo, insomma ci piacerebbe fosse l'Europa del futuro, ecco. E invece l'Europa del presente l'hai toccata con mano in questi giorni. Martedì scorso a Ballarò è andato in onda un tuo reportage proprio da Lesbo, e non solo, andremo a raccontare un po' l'esperienza che hai vissuto, sia professionale che umana. Tutto questo all'Altra Europa, ma come sempre si viaggia, e oggi partiamo dall'Italia. You say you want a revolution, well you know we all want to change the world. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be? Partiamo dall'Italia per raccontarvi una rivoluzione, in particolare una rivoluzione del crowdfunding. Lo facciamo con una eccellenza italiana. Si chiama Roberto Esposito, è il fondatore e CEO di Derev, e ci facciamo raccontare da lui di cosa si tratta. Ciao Roberto, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, eccellenza italiana perché? Perché il tuo progetto, insomma, è stato segnalato tra le 5 migliori piattaforme di crowdfunding in Europa in questa classifica stilata da un progetto finanziato dall'Unione Europea con fondi Horizon 2020. Cosa ti sei inventato? Sì, la nostra piattaforma si chiama Derev, è una startup innovativa ed è di fatto appunto una piattaforma di crowdfunding dove chiunque abbia una buona idea, che sia un artista, un innovatore, un ente pubblico anche, uno sportivo o altro, può lanciare una campagna di raccolta fondi e quindi far leva sulla community del proprio territorio o della propria nicchia di appassionati e finanziare insieme questo progetto. Quindi piccole donazioni da tante persone per raggiungere un grande risultato comune e finanziare un progetto che altrimenti non si sarebbe realizzato. Uh-huh. Roberto, la tua startup è stata fondata nel 2012. Cosa rende una piattaforma migliore di un'altra? Allora, la piattaforma, diciamo, si contraddistingue per alcune caratteristiche. Da un lato ci sono banalmente gli strumenti tecnici di pagamento, di trasparenza, di tracciamento dei flussi, quindi di tutte le donazioni di tutti gli utenti. Dall'altro lato, ovviamente, una buona piattaforma è quella che ha una buona community, ovvero che sia una piazza affollata di appassionati, di utenti, che quindi scoprono ogni giorno nuovi progetti sulla piattaforma e decidono di contribuire a finanziarli. Quindi ovviamente crowdfunding vuol dire appunto finanziamento dal basso, dal pubblico, e quindi c'è bisogno di un grande pubblico per raggiungere un grande risultato. La nostra particolarità è quella di avere una community molto vasta, abbiamo 6 milioni di follower su social network e abbiamo una forza anche mediatica e di amplificazione dei progetti molto forte, per cui chi viene da noi con una buona idea e una piccola community riesce ad unire, insomma, la qualità della sua idea alla forza della nostra diffusione, quindi raggiungere un grande pubblico per finanziarla. Roberto, il crowdfunding è stata una risposta o una conseguenza della crisi? Diciamo è stata entrambe da un certo punto di vista, perché ovviamente nei momenti di crisi le persone si reinventano. Se le banche non possono più finanziare, gli investitori insomma sono più titubanti, le persone decidono di autoprodursi e quindi si rimboccano le maniche e lavorano per finanziare da soli le cose che hanno a cuore. E quindi di fatto una dei rami più forti del crowdfunding è il crowdfunding civico, dove i cittadini di una città, di un territorio, di una comunità, anziché aspettare che il comune, la regione, la provincia di turno finanzi un'opera pubblica, un bene culturale, un servizio per i cittadini, decidono di mettersi in prima persona a partecipare attivamente con un piccolo contributo e quindi finanziare un'opera per la propria comunità. In Italia il crowdfunding, la cultura del crowdfunding ha attecchito più o meno che nel resto d'Europa? In Italia ha attecchito molto di più per alcune aree, come appunto quella della cultura, quella dell'area civica, anche quella del no profit. Funziona un po' meno per le nicchie che sono ad esempio l'hardware, i fumetti, insomma delle nicchie molto ristrette che in Italia hanno numeri molto bassi, quindi anche con progetti di qualità è difficile raggiungere numeri elevati. Dall'altro lato invece abbiamo avuto enorme successo sui progetti appunto civici, i beni culturali, le opere pubbliche, proprio perché in Italia è molto un argomento molto sentito e dall'altro lato è un settore molto problematico appunto quando poi si tratta di finanziare opere pubbliche con i fondi pubblici. Certo, www.derev.com, questo è il sito di riferimento della piattaforma. Roberto, prima di salutarci, dai, un esempio concreto, un progetto che avete attivo in questo momento e che è particolarmente significativo. Allora, ti faccio un esempio. Sì? Esattamente 3 anni fa Città della Scienza, il Museo Tecnologico di Napoli, venne incendiato e distrutto. Noi lanciamo una campagna di crowdfunding civico appunto per ricostruire il Museo di Città della Scienza, ma in realtà era una campagna simbolica, perché puntavamo a raccogliere 100.000 euro chiedendo un euro a 100.000 persone. Abbiamo raccolto 1.600.000 euro, quindi era ben oltre le aspettative. Ecco, questo è il crowdfunding, insomma, le sue piacevoli conseguenze. Grazie davvero, complimenti, in bocca al lupo per te. Grazie e tutto voi. Il tuo team. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, il traffico, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Conferenza provincia di Jiangsu. Siete professionisti o manager europei interessati ad allargare gli orizzonti del vostro business verso la Cina? L'11 marzo a Roma si terrà il meeting internazionale Jiangsu Cultural Industry Overseas Talent Fair and Projects Conference 2016, promosso e sostenuto dalla provincia di Jiangsu, uno dei territori più popolosi e avanzati della Repubblica Popolare Cinese. Nel corso del mese di marzo, il meeting avverrà in diverse città d'Europa e sarà un'occasione di incontro tra realtà imprenditoriali di alto livello, ospitando anche una vera e propria job fair per professionisti high-end dell'industria culturale. Chi desidera partecipare dovrà inviare entro il 9 marzo il proprio CV in lingua inglese all'indirizzo mail dell'Associazione degli Artisti Cinesi in Italia, aacifirenze@hotmail.com. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta L'altra Europa. Emilia, questa foto ha fatto il giro del mondo. Che effetto le fa? A me sembrava una cosa così normale. Non sapevo neanche cos'era il premio Nobel per la pace. Ma vede, anch'io sono figlia di profughi. E questa gente scappa dalla guerra. Proprio come fece mia madre. Quel pomeriggio eravamo lì sul mare con le amiche e ricordo che è stato molto emozionante dare da mangiare a quel bambino siriano che è appena un mese. Erano almeno 50 anni che non allattavo un neonato. Do you have a message? E cosa direbbe a chi chiude le frontiere e tira sui muri? Mi sembrano persone senza cuore, ma tanto la gente non si ferma, stia tranquilla. Continueranno ad arrivare e noi, nel nostro piccolo, li aiuteremo. Parole forti, parole toccanti, dette da un'anziana signora La fotografia di questa nonna con in braccio un bimbo di poche settimane mentre l'allatta ha fatto il giro del mondo è valsa, ma non per questa foto, ma per tutto il lavoro che stanno facendo, la candidatura al premio Nobel per la pace alla società civile e cittadini di Lesbo e di Lampedusa. Era un estratto del reportage fatto da Eva Giovannini, andato in onda martedì scorso a Ballarò. Eva, hai avuto il piacere di incontrare, conoscere, chiacchierare con questa vecchietta, chiamiamola così, che forse è la... sì, questa nonna. Questa nonna. Sì, l'ho conosciuta dentro la sua casa, che è una casa semplicissima, saranno, non so, forse 40 metri quadri, proprio vicino alla parte nord, alle coste nord dell'isola di Lesbo. E in realtà quel pomeriggio, insomma, che poi è diventato famoso attraverso quella foto, è uno dei tantissimi pomeriggi che la signora Emilia ha passato lì, seduta con le sue amiche di fronte al mare, in attesa di fatto che sbarchino i migranti, perché lei sa che ogni sera qualche barcone si avvicinerà a quella costa e in qualche modo lei potrà dare un contributo. Quella è stato un pomeriggio particolare, perché si è trovata tra le braccia proprio un neonato al quale ha provveduto appunto a dare il biberon. Casualmente c'era un fotografo, un bravo fotografo, che ha immortalato questa scena, che poi è diventata un simbolo. Ecco, da una parte è un simbolo molto bello, dall'altra parte però fa un po' dispiacere, ecco, che debba essere una signora di 85 anni, figlia a sua volta di profughi, a incarnare il principio della solidarietà, principio che invece dovrebbe essere difeso dai capi di Stato, anche perché è uno dei principi cardine dei trattati europei. C'è proprio l'articolo 80 che si regge su questo e dice: le politiche relative ai controlli delle frontiere e all'asilo e all'immigrazione sono regolate dal principio di solidarietà e ripartizione equa della responsabilità tra stati membri. Quindi solidarietà e responsabilità, i due grandi assenti. Sei stata a Lesbo, sei stata ai confini tra Grecia e Macedonia, hai incontrato persone, hai raccolto storie. Cosa hai visto in questi giorni? Cosa sta accadendo? Cosa non sappiamo? Cosa non vediamo da qua? Sì, ho mandato in onda, diciamo, 8 minuti di circa 7 ore di girato, per cui la maggior parte delle cose che ho visto non sono andate in onda, perché magari erano televisivamente meno, tra virgolette, forti, ma non per questo umanamente meno spiazzanti. Ci sono state immagini, no, di sbarchi diurni di famiglie intere arrivate dall'Afghanistan con bambini piccolissimi a bordo, ignare del fatto che per loro non c'era alcuna speranza, ad esempio, di superare i confini, anche se nei giorni in cui io ero a Idomeni, al confine macedone, neanche per i siriani o gli iracheni c'era spazio per attraversare quel confine di filo spinato. Ma per questo assurdo gioco, diciamo, della gara al ribasso, gli afghani in questo momento si trovano a vivere in maniera del tutto arbitraria una esclusione di fatto, per cui queste famiglie, identiche alle famiglie siriane che sbarcavano dai gommoni, erano ignare del fatto che per loro non c'era alcuna via di transito, e quindi molti di loro, chi riusciva ad arrivare in taxi, a piedi, dopo chilometri di marcia al confine, veniva caricato su dei pullman, scortati dalla polizia e riportato giù, ore di pullman per raggiungere di nuovo ad Atene, Atene che peraltro sta scoppiando, perché questo imbuto alla rovescia che è diventata la Grecia, ovviamente si deve far carico dell'assenza di solidarietà degli stati, soprattutto degli stati, diciamo, della cosiddetta rotta balcanica, no? Che si sono ritrovati la settimana scorsa in una riunione con l'egida di Vienna, il cosiddetto gruppo di Visegrad, no? La Repubblica Slovacca, Ceca, la Polonia, l'Ungheria, che in questo momento sono gli stati forse meno solidali d'Europa. E c'è un sentimento che hai raccolto più di altri? Cioè, speranza, rabbia, disperazione, rassegnazione? Rassegnazione no. Ecco, se c'è un sentimento che non c'è, che non si respira in quei posti, è la rassegnazione. Queste sono persone che hanno lasciato macerie dietro di loro, che mi hanno mostrato video di case distrutte. Molte di loro sono con le stampelle, hanno fatto decine di chilometri a piedi con le stampelle. Figuriamoci se si rassegnano a un muro di filo spinato. Sicuramente troveranno altre strade, alcune aspetteranno, chi avrà un po' più forza nelle gambe cercherà delle alternative. Purtroppo chi rischia di guadagnarci molto in questa situazione paradossale, tratti grottesca, sono i trafficanti. Si stima un giro di 14 miliardi di euro di persone pronte a allearsi con le mafie locali per portare queste migliaia, decine di migliaia di persone a destinazione. E quindi ecco, non solo i muri non fermano le migrazioni, non fermano gli sbarchi, ma alimentano le mafie. E dal 7 al 12 marzo, quindi la prossima settimana, Radio 24 vi accompagnerà in un viaggio all'interno della Grecia. I nostri inviati, i nostri collaboratori toccheranno la stessa rotta che ha fatto Eva Giovanini. Tenteremo di raccontare cos'è Atene, tenteremo di raccontare cos'è Lesbo, tenteremo di raccontare quella che è la società politica, la società civile, quella che è l'economia di una nazione che in questi anni sta vivendo facce drammatiche della contemporaneità. Eva, dopo che è nato in onda il tuo reportage, tra l'altro abbiamo pubblicato il link sia su Facebook sia su Twitter perché è possibile rivederlo, tanti complimenti, tanta commozione, tanta emozione. Anche tante critiche però, no? Di chi diceva, vabbè, siete lì a raccontare questa cosa solo per cercare di convincerci ad accogliere tutti, ad aprire le porte a chiunque. Com'è raccontare questa attualità? C'è una chiave giusta? Si corrono dei rischi? Queste critiche si corrono i rischi di chi solitamente peraltro sui social network ti dice allora prenditeli a casa tua, come se fosse una questione privata e non invece una questione legislativa, peraltro appunto già parte di una legislazione in essere. Voglio dire, quello che ho visto ai domeni è in violazione palese dei principi fondamentali dell'Unione Europea, dell'articolo 1 della dignità dell'uomo e dell'articolo 18 sul diritto d'asilo, sul diritto appunto di essere dello stato di status di rifugiati. Quindi non serve, diciamo, appellarsi alla legge del prenditelo sul tuo divano, no? Che conosciamo molto bene. Basterebbe applicare trattati, soprattutto rendere esecutive le quote di ridistribuzione. Noi stiamo assistendo al collasso, come scrive Le Monde, agli ultimi giorni dell'Europa, per numeri che non lo dico io, lo dice Juncker, sono numeri ridicoli. L'Europa si è incagliata, si è abissata su una cifra di 160.000 richiedenti asilo da distribuire in 28 paesi membri, quindi una popolazione di 500 milioni di persone. E è evidente che il nodo è tutto politico e non è certo numerico. Eva Giovanini, oggi ospite all'Altra Europa. Sono tante le Europe che raccontiamo qui all'interno del nostro programma, però insomma lo sapete, ci seguite da anni e ben conoscete ormai anche le mie idee, non solo quella che è un po' la colonna portante di questa Europa di cui tanto parliamo, che è il progetto Erasmus, i 3 milioni, ormai quasi 4 milioni di studenti che in 20 anni hanno vissuto la mobilità, hanno vissuto la contaminazione culturale. Ci piace ricordare questo, ci piace rilanciare storie ed esperienze. Oggi abbiamo il piacere di farlo con un intellettuale. Diamo il benvenuto al noto linguista Tullio De Mauro. Buongiorno De Mauro, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a voi, a tutti. Prendiamo spunto da un articolo, da un suo pensiero tratto da Internazionale, dove c'è la sua rubrica. L'avanguardia europea degli studenti Erasmus era il titolo. Certo. Cosa rappresenta oggi l'Erasmus per questa Europa? È una cosa che funziona. Cominciamo col dire questo. Funziona a mio avviso, come ho cercato di dire più volte, non va sopravvalutata. Comunque, funziona bene. E sono, appunto, lei l'ha detto, centinaia di migliaia gli studenti dei vari paesi europei che si trasferiscono per un periodo, per un breve periodo, sostenuti da borse di studio in altri paesi. Erasmus Plus, o come la nuova riorganizzazione di Erasmus fatta dalla Commissione europea, prevede un allargamento, diciamo, anche a altre categorie che non siano solo gli studenti universitari, a cominciare dai docenti universitari, della possibilità di finanziamento Erasmus per soggiorni di studio e di continuazione della loro attività di studio o di insegnamento in altri paesi europei diversi dal proprio. Questo è un fatto fondamentale che arricchisce tutti i paesi che ricevono, in questo caso sembra non esserci dubbio da parte di nessuno, i paesi che ricevono e i paesi da cui provengono gli studenti Erasmus e che poi rientrano. Questo mi pare un fatto positivo. Assolutamente, ma lei più volte, ma anche nel suo libro In Europa sono già 103, troppe lingue per una democrazia, sì. Mette ovviamente la lingua al centro, come uno degli elementi fondamentali. Certo, questa è un'occasione fondamentale perché ci si scambi la conoscenza di lingue europee diverse dall'inglese e naturalmente anche dallo stesso inglese. La conoscenza dello stesso inglese, perché in molte università di molti paesi europei la circolazione, specialmente ai livelli alti e più avanzati della ricerca, della specializzazione, l'inglese è la lingua franca più largamente usata, anche se quella qualche stato vieta la cosa, e anche in Italia ha suscitato scalpore o suscita scalpore l'idea di fare alcuni insegnamenti delle università in inglese, ma insomma la cosa va avanti e quindi si imparano andando fuori di casa, specie per noi italiani che siamo molto pigri e molto indietro nella conoscenza di lingue straniere, si imparano altre lingue straniere e si impara tra queste anche l'inglese. Certo. Quindi questo è assolutamente un dato positivo e importante. E io ho cercato di dire più volte che questo fenomeno, che l'Unione Europea ha il merito in questo caso di sostenere un fenomeno che ha una portata molto più vasta, che è quella della migrazione di studenti in generale per il mondo, anche senza nessun Erasmus. Si calcola che siano ormai ogni anno oltre 2,5 milioni gli studenti che dal proprio paese vanno a studiare, magari a spese proprie o per lo più a spese proprie, in altri paesi. Quindi è un fenomeno mondiale questo della migrazione dei giovani, anche non in stato di necessità. Assolutamente. Cioè, voglio dire, non nelle condizioni di essere costretti, insomma. Dello studente italiano che si trova un muro davanti per quanto riguarda il suo avvenire perlomeno immediato. Certo. Ma anche il 18% di questi 2,5 milioni è fatto da studenti degli Stati Uniti che preferiscono andare in altri paesi, che migrano verso altri paesi. Quindi è così, percentuali enormi sono di studenti tedeschi, francesi, che da università di altissimo livello preferiscono seguire distinto la voglia di conoscere culture e paesi diversi e migrano in giro per il mondo. Sono i nuovi, nel Medioevo questo era normale, i clerici vagantes, e questi sono i nuovi clerici vagantes e sono cifre enormi rispetto a quelle dell'Erasmus. Io credo che questo sia destinato a essere molto importante. Grazie davvero De Mauro, complimenti come sempre per le sue riflessioni molto stimolanti e anche incoraggianti. Buon lavoro e buon sabato. Grazie. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. What is volunteering? Within the philosophy of Erasmus Plus Youth in Action, Volunteering is very important as a way to learn and contribute to personal development, as well as to the society we live in. Volunteering is considered an altruistic activity. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa in diretta su Radio 24, @ Federico Taddia, Twitter e Facebook per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Come oggi in studio Eva Giovannini per raccontare la sua testimonianza diretta da Lesbo e dalla Grecia, ma anche per parlare un po' del come raccontare l'Europa. Stavo pensando prima, Eva, che insomma... tu hai fatto un libro, tu hai parlato e scritto tantissimo di d'Europa e si è tentati, no? Sempre a parlare delle criticità, che è giusto farlo, però poi troppo spesso ci si dimentica del resto. L'Erasmus, ne abbiamo appena parlato con Tullio De Maro, adesso andiamo a parlare di servizio volontario europeo che compie 20 anni, anche questa è una, credo, un segnale importantissimo di quello che l'Europa fa per i giovani. È meno interessante parlare dell'Europa che funziona? Ma sì, forse good news non sono mai, no? così appetibili da noi giornalisti, però è vero che in realtà quello che non funziona non è l'Europa, ma sono gli stati. Cioè ci vorrebbe più Europa, non meno Europa, per farla funzionare. L'Europa dei diritti fondamentali, dei trattati, è l'Europa giusta, quella a cui ambire. E invece è lo strapotere degli stati nazionali che sta creando la situazione di disgregazione, la fine del disegno europeo che i padri fondatori avevano immaginato. Ci vuole più Europa, credo che sia anche uno dei mantra di Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'istituzione governativa italiana che gestisce il programma Gioventù Nazione, in particolare il programma europeo Erasmus Plus, che è uno dei grandi protagonisti di questa festa dei 20 anni di servizio volontario europeo. Ciao Giacomo, bentornato all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Erasmus Plus è uno degli strumenti per avere più Europa? Assolutamente sì. Quella porzione d'Europa distante dal dibattito mediatico, dalla politica, dai partiti, ma che invece nel quotidiano almeno 3 generazioni di giovani europei hanno già imparato non soltanto a conoscere, ma a vivere appunto giorno per giorno. La possibilità di vivere 2, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno in un altro stato, in un'altra realtà, imparare una lingua, conoscere dal vivo nel quotidiano appunto un'altra dimensione, la dimensione continentale come quella naturale, è un'altra Europa. E altra Europa che voi come agenzia giovani insomma conoscete bene, sono stati oltre 1200 giovani che hanno partecipato nell'ultimo biennio ai programmi di servizio volontario europeo. Quest'annata dell'agenzia giovani sarà fortemente proiettata per favorire, sviluppare, far conoscere questa possibilità. Che cos'è per te il servizio volontario europeo, Giacomo? Qual è il valore aggiunto che può dare a un giovane? Ma intanto ha un valore aggiunto che nessun programma europeo ha, quello dell'inclusione. Per partecipare a un programma Erasmus bisogna essere studenti universitari, per partecipare a un programma dello SVE no, è quindi maggiormente inclusivo, e soprattutto per i ragazzi che hanno migliori opportunità, migliori possibilità. Quindi intanto è un programma realmente di integrazione e inclusione, non ha particolari vincoli. Lo si può fare per un periodo di tempo che vanno appunto ai 2 mesi o 1 anno, quindi tutto questo lo rende facile facile la partecipazione. È quella cosa, la dico così, che permette ai ragazzi di scoprire che l'Europa non è soltanto lo spread la sera davanti ai giornali, ma è una dimensione non più soltanto idealizzata, ma vissuta quotidianamente. agenziagiovani.it è il sito ufficiale, come sempre, per avere tutte le informazioni. In questi giorni anche tante testimonianze, tanti racconti di chi ha vissuto in prima persona questa esperienza con noi. C'è anche Marco Melloni che il suo SVE l'ha fatto 7 mesi in Argentina insieme all'associazione TDM 2000 di Cagliari. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno, grazie. Intanto perché sei partito? Sono partito perché avevo tantissima voglia di fare un'esperienza all'estero, di mettermi alla prova. Inizialmente sono partito diverse volte con i programmi Youth in Action, che adesso è diventato Erasmus Plus, gli scambi giovanili e training course, che però durano una settimana, 10 giorni. Avevo voglia di fare un'esperienza più ampia, di volontariato, di servizio, ma anche di accrescimento personale. 7 mesi a Rosario, in Argentina. Di cosa ti sei occupato? Prestato servizi in un'organizzazione che si occupava di sviluppo comunitario, progetti di inclusione di fasce basse della popolazione che vivevano nella periferia della città, nello strato comunitario, quindi attività con i bambini nelle scuole, attività nelle mense comunitarie, e in particolare una delle cose più interessanti, lavoravamo in progetti, l'associazione costruisce delle case nella Visha, che sarebbe insomma un pochino la bidonville, lo slum delle città argentine, e noi seguiamo i progetti successivi, quindi un passaggio di questo tipo: l'associazione dà una casa a una famiglia bisognosa e poi chiede alla famiglia bisognosa ad aiutare altre famiglie, quindi una restituzione del servizio, e quindi era una cosa molto interessante per noi. Marco, tu hai 26 anni, questa esperienza è stata una parentesi o è qualcosa che comunque ti ha cambiato, ti ha segnato, ti ha orientato nel tuo futuro? No, assolutamente una parentesi non può essere, nel senso che sono 7 mesi che un volontario vive come se fossero un paio d'anni, perché è veramente intensissimo ed è una full immersion. A differenza dell'Erasmus, il sistema volontario europeo ti porta veramente a vivere la realtà, a vivere la realtà locale, a vivere l'associazione, a vivere le persone con le quali lavori e alle quali presti un servizio. E torni cambiato, personalmente. Sia nella motivazione, ho finito il mio corso di studi, ho trovato un lavoro, mi sono andato a vivere da solo, quindi un acceleramento anche di quello che è la mia vita personale e lavorativa, e con una maggiore consapevolezza anche su me stesso, sugli altri, sulle cose di cui abbiamo anche a disposizione ogni giorno, anche se a volte non ce ne rendiamo conto. Grazie davvero Marco, complimenti, in a bocca voi. Al lupo. Ciao, ciao, ciao. Tanto. Torniamo da Giacomo. Giacomo, ci vuoi anticipare un po' cosa succederà in questa annata? Ma noi intanto ieri abbiamo fatto l'apertura, io tengo a precisare che ieri era il primo appuntamento, perché è l'anno del ventennale SVE, stiamo immaginando una serie di appuntamenti e iniziative per tutto l'anno, soprattutto eventi e iniziative che coinvolgono e che sono promossi dagli enti che si occupano di SVE, associazione d'enti in tutto il territorio nazionale, dove ci saranno realtà che vorranno organizzare appuntamenti, iniziative grandi, piccole, l'agenzia sarà accanto a loro, sarà con loro, lo saranno soltanto virtualmente, lo sarà fisicamente, stiamo preparando del materiale da inviare, a far avere, in modo che da sostenere e da dare un contributo di sostegno a chi vorrà organizzare iniziative, appuntamenti appunto su tutto il territorio nazionale. E poi stiamo orientando su questo tema, sul tema dello SVE, una serie di iniziative, dalla formazione ai nostri info day, ai rapporti con altre istituzioni, con altre iniziative, stiamo mettendo lo SVE al centro, in modo che tutto l'anno sia un filo rosso che unisce l'attività dell'agenzia con un evento finale il mese di novembre, che è concluso quest'anno. Giacomo, ma arriveranno più soldi? C'è il nuovo pro con l'Erasmus Plus? Quest'anno aumenta un pizzichino la quota di risorse per l'Italia, nel 2017 c'è il raddoppio, a maggior ragione nel 2016 è un anno di importante per la SEMI e per farlo conoscere, per promuoverlo, in modo che il 2017 i giovani italiani, le associazioni, le realtà che possono farlo siano nelle condizioni di poter aggredire le risorse europee. Mi piace ricordare che l'agenzia impegna e spende il 100% delle risorse che ha a disposizione, vogliamo centrare questo obiettivo non soltanto nel 2016 ma anche nel 2017, anche per questa attività. Agenziagiovani.it, Giacomo D'Arrigo, grazie a te e a tutto il tuo team. Ciao. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao. Adesso un euro post-it e ci fermiamo per il traffico, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Torna al concorso Europa e Giovani 2016. Avete meno di 27 anni e la passione per la scrittura? Europa e Giovani è il concorso che l'IRSE, Istituto Regionale di Studi Europei di Pordenone, organizza ogni anno per promuovere la formazione linguistica e interculturale, la storia e l'attualità in Europa. La competizione è aperta a studenti di università e scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane e dell'Unione Europea. La parola chiave dell'edizione di quest'anno è attualità, con tracce diverse a seconda della fascia d'età dei partecipanti. I lavori dovranno pervenire all'IRSE entro e non oltre il 26 marzo. Tutti i dettagli collegandosi al sito centroculturapordenone.it. L'altra Europa. La chiusura del confine macedone non ha bloccato gli sbarchi e nella sola notte, tra sabato e domenica, sono arrivate 1000 persone. Eccoli, stanno arrivando. Sono le 3:30 del mattino. È già il quinto stasera. Ci sono dei bambini piccolissimi, guardate, fa molto molto freddo. Un altro estratto dal reportage di Eva Giovannini, Eva Sbarchi, che hai visto in diretta, perché sono tante, perché era notte, perché era quello che volevi raccontare. Credo non sia facile essere lì con una telecamera accesa durante uno sbarco. La stessa domanda di prima: cosa non capiamo, cosa non vediamo da qua, di quei momenti? Noi non capiamo che mentre per noi è la 100ª volta che in televisione vediamo queste immagini, le marce, gli sbarchi, i gommoni, i barconi, ecco, per loro, per ognuno di loro è sempre la prima volta. E quindi l'emozione, la paura, il terrore nello sguardo e negli occhi di quelle persone è il terrore della prima volta in cui ci si sente, per esempio, sopravvissuti. Quando arrivano dopo 4 ore in mare tra le onde, alcuni di loro sono in ipotermia, altri hanno perso magari di vista il proprio bimbo perché stava in fondo alla barca e non hanno potuto neanche muoversi perché sono stivati, sono uno accanto all'altro senza come sardine in questi barconi, peraltro non omologati, che arrivano in fondo alla traversata pieni d'acqua spesso. Ecco, per loro è sempre la prima volta, quindi tu ti trovi con lo sguardo cinico, no, dell'occidentale che sta al caldo sul proprio divano a documentare da vicino paure autentiche, paure appunto primigenie, perché poi vedere arrivare queste barche di notte è proprio un buio primordiale, no? È un buio reale, un buio simbolico, è il buio dell'Europa che insomma stiamo costruendo. E pensare che noi dovremmo coccolarle queste persone anziché sbatterle fuori dai muri. Ti do solo un dato, Federico: pensa che nel 2050 l'Unione Europea avrà 50 milioni di abitanti in meno e quelli che avranno più di 65 anni rappresenteranno il 35% della popolazione europea, quindi persone poco dinamiche professionalmente dal punto di vista lavorativo. Quindi noi queste persone, questi giovani che arrivano, dovremmo istruirli, coccolarli, accoglierli, invece ci fanno paura. E poi anche questa situazione, c'è un altro file audio, adesso c'è un altro file audio significativo. Non è facile ovviamente capire dalle voci, momenti concitati, momenti di rabbia, di lotta, di protesta, che cos'è? Questi sono gli audio proprio originali della protesta che si è svolta lunedì mattina di fronte ai 15 km di filo spinato a Idomeni. Idomeni, il suo nome è diventato famoso, Idomeni è un villaggio di 1000 anime al confine tra la Grecia e la Macedonia, siamo in territorio greco ovviamente, in un campo che era stato allestito per 1500 persone. Nel giro di 10 giorni da quando la Macedonia ha deciso di chiudere, ogni giorno arrivando di fatto 1000 persone, si è giunti a una cifra record di 10.000, circa 4.000, tra i 3 e i 4.000 sono bambini, e al settimo giorno di attesa stremante, ore di fila per un panino, dormire nel fango, bambini con tossi incredibili perché non solo fa freddo, non solo si prendono il raffreddore che si prenderebbe chiunque a dormire all'aperto, ma respirano anche i fumi tossici dei fuochi che si accendono i loro genitori la sera bruciando quello che trovano, quindi plastiche, materiali appunto non organici, e quindi tossiscono tantissimo. Ecco, al settimo giorno di questo inferno hanno preso e con quello che hanno potuto hanno cercato di sfondare il filo spinato. La reazione della polizia macedone è stata violenta, si hanno sparato a vista lacrimogeni, ci sono stati molti feriti, molti dei feriti erano bimbi, e insomma queste sono le voci originali di quel momento. Il ritorno dei nazionalismi è il sottotitolo del tuo Europa anno zero, e questi chilometri di filo spinato stanno a significare che hanno vinto loro, ha vinto il nazionalismo. Purtroppo quando è uscito il libro pochissimi mesi fa qualcuno mi aveva detto che ero un po' pessimista, no? Ahimè, devo ammettere insomma che in realtà quello che dicevo, che scrivevo, cioè che i nazionalismi avevano vinto a prescindere dal fatto che fossero forze di governo, avevano vinto perché hanno imposto un'agenda, appunto che è diventata maggioritaria. Pensiamo alla Francia di Calais, no? Delle ruspe di Calais. Hollande sta facendo tutto questo perché Hollande è già in campagna elettorale, nel 2017 si vota, e lo stesso sta succedendo in tanti paesi. Voglio dire, guardiamo due cifre al volo, quello che è successo anche in Danimarca, no? Con il Parlamento che ha votato la legge sul, diciamo, sul sequestro dei beni dei migranti. Si fa perché c'è sempre un'opposizione interna nazionalista, spesso xenofoba, che cresce e che drena consensi alle forze di governo. La Danimarca, il partito di destra populista, sta al 20%, l'Austria, in Austria l'FPO sta al 30%, e l'Austria, come sappiamo, ha chiuso, sta chiudendo i suoi confini. Lo stesso vale per l'Inghilterra: non ci sarebbe mai stata la proposta di un referendum per uscire dall'Unione Europea se il partito UKIP, xenofobo, euroscettico di Nigel Farage non fosse stato un partito capace di mobilitare milioni e milioni di inglesi. E ovviamente in Francia, insomma, ça va sans dire appunto che le mosse di Hollande e del governo socialista sono mosse dettate dall'inseguimento di Marine Le Pen, che con ormai il suo 30% è diventato il primo partito di Francia. Grazie Eva Giovannini, vi ricordo ancora Europa anno zero, il ritorno dei nazionalismi, edito da Marsilio, questo bellissimo viaggio in un'Europa che è assolutamente da conoscere per non farsi travolgere da questi nazionalismi, assolutamente. Grazie Eva. Grazie Federico, grazie a tutti. Ricordiamo voi. Oggi pomeriggio alle fonderie, non ricordo il nome perché è un... Laboratorio Libdem. Esatto, questo pomeriggio di riflessioni, di incontri, di TED credo che questa sia la formula. Di TED, una specie sì. Di TED, di racconti. Grazie a tutta la squadra di Radio 24. Vi ricordo, Radio 24 dal 7 al 12 marzo, Lesbo, Idomeni, Atene, la Grecia di oggi raccontata dalle voci di Radio 24, dai nostri inviati, dai nostri ospiti, gli esperti in studio per ripercorrere e percorrere insieme le strade della Grecia per cercare di capire il cammino dell'Europa. Grazie a Claudia Schiattone, oggi tornato del Claudio così per sbagliare anche da tradizione, Claudia Schiattone, Roberta Frisani alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. Questa è l'altra Europa, come sempre buon sabato da Federico Taddia.